in primo piano. È la giustizia e il sul fronte politico che tiene banco, insomma, sui giornali. Per alcuni è l'apertura. Giustizia, le condizioni del patto, sia la prescrizione breve, misure a tutela dei processi. Così apre il Corriere della Sera. La giustizia ovviamente è il tema politico che vede anche confrontarsi Berlusconi e Fini, come vedremo. Giustizia, non firmo nulla, Fini a Berlusconi. Così è l'apertura della stampa. Repubblica invece sceglie la vicenda che ha visto protagonista Obama, la sanità negli Stati Uniti. Obama, sì, storico sulla sanità. L'apertura del Sole 24 Ore, Sole 24 Ore del lunedì. Piano casa vincolato dai sindaci. Lo vedremo. Due capoluoghi su tre hanno preferito adottare regole su misura. La vicenda del piano casa. Altre aperture di altri giornali che vedremo. Ma resterei subito sul tema del giorno, vale a dire la giustizia. Ieri Fini, per chi lo ha visto, era da Fabio Fazio, A che tempo che fa, ha parlato anche di questo. Domani è previsto un incontro tra Fini e Berlusconi, secondo molti giornali un incontro che dovrebbe essere risolutivo. Sul punto Fini-Berlusconi, intesa vicina sul processo breve. Così si legge all'interno del Corriere della Sera. Il presidente della Camera, il PDL, non sia una caserma. Una norma che non deve danneggiare i cittadini. Scrive Paola Di Caro, le ruggini restano aperte, i rapporti personali sono sempre più difficili. Lo stesso Fini dice al processo breve, non bisogna fare delle norme che danneggino appunto i cittadini. Fini, è vero, considera un'anomalia la durata dei processi in Italia, è favorevole ad abbreviarli, ma è anche vero che dice no a una leggina ad hoc. E tra l'altro la cosa più interessante la trovate scritta da Francesco Verderami, acuto osservatore della politica italiana. Fuori i secondi, Berlusconi e Fini si vedranno domani, perché spetta loro chiudere l'accordo sul delicatissimo nodo della giustizia. Domani, secondo Verderami, sarà il giorno decisivo. La discussione sarà incentrata su norme e codicilli. In presenza di un'intesa sarà chiarito che il documento di cui si parla da giorni e che Berlusconi vorrebbe far firmare a tutti i parlamentari del PDL altro non è che il testo di legge su cui il Premier ha annunciato l'intenzione di esporsi, ponendo di fatto una questione di fiducia, perché, ha spiegato, non si tratta solo di salvaguardare la mia persona, ma di garantire al paese la governabilità, e sono certo che gli italiani mi capiranno. E secondo Verderami gli italiani capiranno anche perché Berlusconi ha già fatto un sondaggio, uno studio riservato di Euromedia Research, che avrebbe detto sostanzialmente al Presidente del Consiglio: vai avanti su questa strada. Interessante anche sul Corriere la lettera che Giulia Bongiorno, che è parlamentare, è Presidente della Commissione Giustizia ed è una finiana di ferro, ha scritto, pubblicata, una lettera al direttore De Bortoli, nella quale, insomma, la Bongiorno dice la prescrizione tecnicamente è una cosa giusta, insomma, la difende dal punto di vista tecnico, poi però avanti dice: attenzione però, la giustizia si può migliorare anche con una migliore organizzazione, più impegno dei protagonisti. Più risorse. In definitiva, lo strumento della prescrizione si deve tener conto che non è che ordinando di ridurre i tempi sic e simpliciter dei processi si trasformi un ordinamento arrugginito in una macchina ben oliata ed efficiente. Esiste insomma il fondato timore che, introducendo una soluzione che il sistema non è in grado di sostenere, si porrebbe una pietra tombale sopra una serie di vicende processuali che magari proprio adesso stanno volgendo al termine. E allora come spiegheremmo alle vittime dei reati in attesa di giustizia che, vista la lentezza del sistema, si è deciso che il tempo per ottenere le sentenze è scaduto? Ecco qua, insomma, lo leggo dalla penna di Giulia Bongiorno, ma sembra proprio la visione di Fini, le perplessità sulla giustizia e sulla prescrizione da parte dei finiani. Tanto che su Repubblica, pronta la leggina per la prescrizione dal Cavaliere, ultimatum agli alleati. Secondo Liana Milella, Berlusconi, oltre alla prescrizione, starebbe anche tentando di ripresentare al Senato un emendamento per far pagare sostanzialmente con il 5% rispetto a quanto sono le condanne in sentenza civile, quelle che sono le condanne. Ovviamente verrebbe fatto, secondo Repubblica, per far pagare con il 5% la mega multa che Mondadori, per il caso Mondadori, che alla fine investa deve a De Benedetti. Berlusconi scrive: Milella utilizza il giornale che titola Chi non ci sta fuori dal PDL, Fini e Bossi devono sottomettersi e sottoscrivere un accordo di ferro, si parla di vederli tutti e due mercoledì, dunque secondo Repubblica, dopo che il Corriere dice che domani Berlusconi si vedrà con Fini, si vedranno mercoledì anche con Bossi. Insomma, freme molto c'è qualcosa che bolle in pentola, ormai l'avete capito, della politica. Tanto che oggi Giuliano Ferrara, nel suo editoriale del Foglio del lunedì, prende carta e penna e scrive direttamente a chi? A Gianfranco Fini. Gentile Fini, sul problema della magistratura, ora tocca a lei. Questo è il titolo della lettera. Una lunga lettera, ne leggo alcuni stralci. Dice Ferrara: ora mi piacerebbe essere rassicurato da lei, ovviamente. Fini, lei sa perfettamente che dietro le tensioni di questi giorni c'è un solo velo di dilemma in azione. Della guida di questo paese decide il popolo o decide l'ordine giudiziario? E poi più avanti scrive Ferrara: Prodi è a casa perché hanno arrestato la moglie di Mastella e la sua famiglia. D'Alema è in riserva della Repubblica invece che in campo perché ha dovuto sottrarsi con l'immunità europea alle attenzioni della magistratura. Di Pietro ha il 10% perché ha fatto delle vecchie inchieste di Milano il trampolino di lancio per la carriera politica qualunquista. Berlusconi, che ha resistito alle inchieste sbocciate subito dopo la sua discesa in campo, viene rimesso in discussione nella sua legittimità. Gentile Fini, delle due l'una. O lei accetta solidalmente gli escamotage che il circolo del Presidente del Consiglio troverà per evitare una condanna a oggi sicura nel solito processo milanese anti-CAV, oppure deve prendere l'iniziativa e trovare lei una soluzione accettabile, mediando e rifinendo gli strumenti legislativi opportuni. Io penso che a lei non convenga ergersi, posto che lo si possa fare, su un campo di macerie. E insomma, conclude poi con osservanza questa lettera di Giuliano Ferrara, che dice: a questo punto Fini spetta a lei. Il papello di Silvio, questo è il titolo di dell'Unità in prima pagina. Berlusconi dà l'ultimatum, il giornale rivela: o mercoledì gli alleati firmano l'accordo sulla prescrizione o sono fuori. Insomma, il tema della giustizia è il tema che tiene banco anche in un'intervista che vi segnalo al giornale di Alessandro Caprettini. Ha intervistato Denis Verdini, coordinatore del PDL. Tornare alle urne è assurdo, sulle riforme mano tesa al PD. E la giustizia in questo problema, in questo paese, è un problema da secoli. Cosa altro bolle in pentola nella politica? Beh, le elezioni regionali, con Calderoli della Lega che in un'intervista a Repubblica ad Andrea Montanari dice: con Veneto e Piemonte chiediamo solo quello che ci spetta. Sembra un po' in secondo piano vista la giustizia, ma in realtà mancano 4 mesi alle regionali e bisogna ridefinire anche molte candidature, con la Lega che fa la voce grossa. Non sono desideri campati in aria Veneto e Piemonte, ma precise richieste nelle sedi opportune, ha detto Calderoli. Non c'è nessun ricatto, non vogliamo la luna, ma solo quello che ci spetta. E il PD è alle prese con l'elezione a presidente di Rosi Bindi e la formalizzazione a segretario del neosegretario Bersani. Il personaggio del giorno nel PD però è Ivan Scalfarotto, vicepresidente scelto tra i mormorii, e lo dice lui stesso, tra i mormorii, li ho sentiti i mormorii da parte di molti delegati. Mormorii perché? Perché Ivan Scalfarotto è omosessuale e fa un'intervista ad Antonello Caporale su Repubblica. Scalfarotto, sentite che parole usa sul PD, ne è vicepresidente. Nel sud dobbiamo fare la rivoluzione, sfilare di mano la campagna a Bassolino, ripulire la Calabria, aprire le stanze del partito in Sicilia. Insomma, puntate a perdere. Tanto si perderà comunque, meglio scegliere questo momento, non crede? Lei ha in animo un colpo di Stato, questo partito ha risorse inimmaginabili, lei lo chiama colpo di Stato e va bene, io sono pronto. Senta, con tutto il rispetto, l'unica cosa che si sa bene di lei è la sua omosessualità. Dire che sono gay, dice Scalfarotto, è come affermare che Obama è nero. Ha senso? In Italia ha senso. È con la Grecia l'unico paese che non rispetta e non tutela i diritti civili. Disgustoso. Dice Ivan Scalfarotto, che poi si rivolge a Rosi Bindi dicendo in passato, questo però non su Repubblica, sul Corriere, in un'altra chiacchierata, dice Rosi Bindi in passato ha usato parole durissime contro gli omosessuali. Ora io sono il suo vicepresidente, lei è presidente, vedremo. Sempre sul PD, Del Turco, parla Ottaviano Del Turco, forse ve l'avete dimenticato, ex governatore dell'Abruzzo, arrestato, finito in un'inchiesta, ora siamo ai reati ipotizzati e al rischio del processo, bisogna decidere se ci sarà il rinvio a giudizio. Ottaviano Del Turco parla al Corriere della Sera: con me e Marrazzo due pesi e due misure, io abbandonato dal PD perché socialista. Piero Marrazzo dice: il partito ha cercato di affrontare all'inizio la storia fornendo questo rassicurante affettuoso genere di spiegazione, siamo di fronte all'attacco di quattro carabinieri felloni, e poi hanno parlato Natalì e Brendona e la faccenda è apparsa tragicamente, lo dico con affetto per il mio amico Piero, più chiara. E poi si toglie qualche sassolino Del Turco su D'Alema. Ripenso come difese Nichi Vendola e invece con me in TV disse: non sono procuratore, avvocato, non ho opinioni da esprimere. Insomma, abbandonato, spariti tutti del PD. Veltroni, mai sentito. Franceschini, mi ha ignorato. Bersani, non me lo chieda, tanto non mi chiamerà. Meno male mi chiamano gli altri. Gli altri chi? Quelli del PDL. O autorità come Cossiga. Beh, insomma, è paradossale, gli chiede Fabrizio Roncone. Esprimo solidarietà dal PDL. No, è normale, dice Del Turco. Il PD nasce dalla fusione di due grandi tradizioni, comunista e democristiana, e da quelle parti l'abitudine era di essere garantisti solo coi propri militanti. Io sono un vecchio socialista. Insomma, parla così Del Turco. Voto storico per l'America. Questo ha detto il presidente americano Barack Obama nella notte tra sabato e domenica. La Camera ha passato la riforma sanitaria voluta dallo stesso presidente americano. Ora aspetta il Senato. È l'apertura di Repubblica e poi all'interno Obama voto storico per l'America. Sostanzialmente però con questa riforma il testo approvato porterà una copertura per 36 milioni di americani in più rispetto agli attuali, multa per i privati e le aziende che non si dotano di assicurazione, il divieto alle compagnie di limitare o fare pagare di più le prestazioni ai poveracci, leggo, che hanno una storia di malattie, soprattutto poi la possibilità di scegliere tra copertura privata e copertura statale. C'è da dire che Obama, per incassare questo faticoso sì alla Camera, un faticoso sì ottenuto con 220 voti a favore e 215 contrari, con molti dei suoi democratici, ben 39 che hanno votato contro e un solo repubblicano che invece ha votato la riforma di Obama, per incassare questo ha dovuto fare una sorta di compromesso. Si legge molto bene ed è molto ben spiegato sulla stampa: l'accordo con i vescovi spiana la strada al sì. Che c'entrano i vescovi? Scrive Maurizio Molinari da New York che è stato il compromesso sull'aborto con la conferenza episcopale americana a spianare la strada all'approvazione della riforma sanitaria. Infatti poco prima del voto sulla legge voluta da Barack Obama e da Nancy Pelosi, vale a dire la presidente della Camera, la maggioranza democratica ha fatto approvare un emendamento anti-abortista che impedisce di usare le nuove coperture sanitarie per consentire interruzioni della gravidanza, tranne nei casi di violenza, incesto o quando la vita della madre è in pericolo. Grazie a questo emendamento Obama avrebbe incassato, diciamo, il sì anche della conferenza dei vescovi americani e dunque si è spianata di più la strada per la riforma sanitaria da lui voluta. Ripeto, passata la Camera, ora tocca al Senato. L'economia, vorrei partire, prendere in mano il Sole 24 Ore, piano casa, come detto oggi in apertura, piano casa vincolato dai sindaci. Che succede? Che ormai il piano casa è diventato comunale, come rivela in questa inchiesta il Sole 24 Ore del lunedì. Ora che sono state approvate le leggi in 16 tra regioni e province autonome, la parola passa agli enti locali e ognuno fa un po' come vuole, ma nel senso che c'è chi si adegua, c'è chi no, c'è chi ha già fatto tutti i passi dovuti, altri no. Come scrivono all'interno a pagina 5, sul piano casa il comune detta legge. C'è chi ha selezionato gli edifici in base alla tipologia, chi ha dettato limiti specifici, per esempio stabilendo che non si potranno toccare le palazzine in stile Liberty come a Verona o Vicenza, o le case in collina come a Bologna, o chi ha introdotto un vincolo di altezza massima oltre il Po come Torino. Insomma, l'intesa nazionale sul piano casa, declinata ora dalle leggi regionali, è approdata nei consigli comunali. E che succede? Che per esempio a Milano, o meglio, scusate, in Lombardia, 12 città su 12, 12 capoluoghi di provincia, hanno già predisposto tutto sostanzialmente. In Piemonte solo uno su otto, solo Torino ha deciso, l'unico ad aver deliberato in senso restrittivo è il capoluogo. In Toscana solo una su 10, Prato è apripista, visto che la legge non chiede ai comuni di pronunciarsi, ma Prato ha limitato la tipologia di lavori, cioè c'è chi ha votato le delibere e chi ha fissato limiti più stretti. Se volete sapere un po' quali sono tutti i limiti capoluogo per capoluogo, provincia per provincia, sul Sole li troverete, a fronte di altri dati che allarmano, appena due pagine più avanti, a pagina 7, di fronte al piano casa, cresce l'abusivismo, senza permesso in Italia un'abitazione su 10, picchi di illeciti nei periodi di condoni, e vabbè, solo di rado scattano controlli e demolizioni, sono stime del CRESME su quanti sono le costruzioni fuori dalle norme, a fine anno saranno 27.000 secondo le stime, e davvero ci sono tanti dati molto interessanti. Vabbè, l'avete sentita anche in GR24, rischia di deflagrare come la polemica del giorno, ma speriamo di no. La Santanchè è andata in TV in un pacato confronto sul dialogo interreligioso, ha detto Maometto era un pedofilo. Perché? Perché tra le varie mogli aveva anche una moglie di 9 anni, e quindi Daniela Santanchè dice Maometto per la nostra cultura era un pedofilo. Lo trovate su Repubblica. La Santanchè in TV insulta Maometto, l'imam di Segrate che replica cerca solo pubblicità. C'è anche un lungo articolo di Alessandra Longo che alla fine raggiunge Abu Ali Shuaima, l'imam di Segrate, gli chiede ma insomma questa vicenda della bimba di 9 anni com'è? E lui risponde a un vecchio argomento, alla morte della moglie più importante Kajia, e mi scuso per la pronuncia, l'amico Abu Bakr gli offrì Aisha, che era una bimba di 9 anni. Il profeta accettò, ma aspettò che fosse adulta per sposarla. Ma poi aggiunge, comunque è chiaro, la Santanchè cerca lo scontro, non le interessa capire le ragioni degli altri, se è evitato lo scontro proprio di poco. Ieri Barbara D'Urso, la conduttrice del programma, tarda sera, ha emesso una nota dicendo... io e il mio staff ci dissociamo dalle frasi offensive pronunciate nei confronti della religione islamica. Ci fermiamo qui con questa segnalazione.